Vacanza di Lago. Capitolo 1. Le case di fronte cambiavano di colore ogni ora. Ciascuna si ricomponeva nella sua personale inclinazione al mutare calmo dei riflessi, che le esponeva col chiarore appena perlaceo, in grado di svelarne il soffio sottile della matita sull'intonaco. Brillavano ancora insieme, tutte nella lentezza e nell'intensità delle ultime luci d'autunno, inserite nel percorso mirato e regolare del sole, che le incrociava in un punto sempre diverso per ogni nuova giornata, e senza mai trascurarne gli angoli più minuti e riusciti nell'opera naturale e mirata di Lintarsio. Dai fregi angolati e solitari dei lucernari, all'amaranto barocco delle antiche facciate in tufo, immerse nella costellazione imbiancata dei fianchi e delle clessidre piene, conficcate tra i balconi e lo stacco di sangue dei gerani imperiali. Erano tre case ampie e ben distanziate tra loro, che soffocavano la profondità inglese occidentale di un giardino gelido e moderno, che mortificava quel finestrone anonimo da vetri grigi e di cattivi azzurri del refettorio Andersen. Diversi bambini si raccoglievano impauriti e puntuali per guardarle svanire alla sera, come uccelli fiochi di mare inghiottiti dalla fibra di quell'arancio pallido che attenuava di veli sottili la calma bianca delle serate novembrine, così soffuse nella dolcezza degli ultimi lumi di candela, quando gli si celava d'incanto quel piccolo orizzonte spaventoso e struggente verso le ombre mobili e mute degli abitanti. Le luci interne erano già tutte spente, sostituite da un anfiteatro naturale di astri lontani, torpori e piccoli volteggi di fiato, ancora fruscianti delle sacrestie fantasmiche delle camerate più nascoste dal secondo piano, tra le tende appena arricciate dal vento freddo e notturno dei viali, che ritornava ancora più forte quando i disegni e il tornio della luce naturale erano al massimo dello splendore gotico della mezzanotte, imprigionando di ansia le loro insonnie nervose tra i lunghi rami stregati e tremolanti alle finestre. Al mattino presto quei riflessi riprendevano per incanto a rivivere di un passo e di un vigore diversi, mutandosi in arabeschi rosati di luminarie che si gonfiavano fino a deformarsi nelle linee morbide delle betulle e degli abeti del parco. La colazione invernale, addolcita da torroni bianchissimi e frutta secca glucidica, era immersa nel ghiaccio freddo di quelle giornate così nitide nel loro gelarsi, lasciando trasparire dalla finestra appena socchiusa le voci lontane e rassicuranti delle governanti tedesche sui davanzali, intervallate dalla protervia del maschio giovane di Merlo, che sganciava nei primi scrosci autoctoni di gola cristalli liquidi di altissimo repertorio, oltre i confini angusti di rosaie e camelie coricate di vento sul cortile. La domenica, sul presto, si scorgeva il bianco pulito dei tennisti, dispersi nei loro palleggi morbidi nella calma del sole. A volte si confondevano negli echi dei tappeti percossi dalla casa accanto, o con l'abbaiare sereno dei Terranova, appena usciti all'aperto, nell'orgasmo febbrile dei musi e delle code pesanti, verso gli odori violenti del sonno e dei terrapieni. Il campo da tennis era nascosto in buona parte dagli alberi, ma quando la luce era appena più forte arrivavano intatte quelle sue risate atlantiche, senza un tempo, né un'origine acustica definita, se non quella così immaginata e lontana di donna americana e felice, che rideva dei suoi stessi errori maldestri, quando giocava con la racchetta corta, intrecciata del suo stesso bianco di oro, riflesso tra le siepi più basse. Martin la immaginava ancora più chiara e diversa, nelle sue piccole ombre sfuggenti, in quel suo completo nitido con gli occhiali da sole, senza sudore né pieghe visibili dei tessuti. La sentiva sempre più sospesa dentro quel candore così intatto e soprannaturale, e quando finivano il gioco si sporgeva ancora, per riconoscere meglio il profilo e afferrarle più avanti il profumo difficile di un collo adolescenziale, che un accenno brusco di vento pareva riconsegnargli al fiuto, intrecciandosi ai rami più sottili, come resina. Il volto magro della signora Fardin rimaneva sempre sfuggente quando arrivava al mattino, avvolto dall'angoscia misteriosa dei suoi continui ritardi, quando raggiungeva la macchina aperta e rombante, dove il marito l'attendeva per salutarla ancora una volta, nel silenzio pensoso del suo fumo, prima di uscire. L'americana rimaneva ormai così definita per Martin, in quella forza geografica oltreoceanica immaginaria, di un nome così flessibile, muscoloso, si faceva ancora più dolce e lontana quando le parlavano male gli altri, sottovoce. Martin invece non la nominava mai, la teneva racchiusa nell'amore del suo indovinarla da così poco lontano, addentrandosi con timidezza nei solchi di quella sua stanchezza costante e ancora inafferrabile che ormai la caratterizzava in ogni suo minimo spostamento. Quando la donna rientrava a casa da una breve passeggiata, aveva sempre lo stesso passo elettrico e concitato del mattino presto, rendendola liquida e appena increspata, come le tinte soffocanti dei cieli serali che gliel'avrebbero nascosta ancora una volta, quasi per un castigo. Martina si teneva ben stretti ancora coi suoi pochi ricordi, come quelli di quel sabato, quando si erano incontrate per la prima volta. Gli occhi ancora più dolci nel tenersela così piccola e così vicina, con dentro il biancore del viso, le tracce di una tenerezza nordica e disabitata di luminescenze, in quella stanzetta che dava sul frutteto più soleggiato e che aveva sempre le imposte serrate, dal mattino fino a tarda sera. La signora Fardin qualche volta alzava il capo verso le finestre più lontane dell'istituto, quasi a cercarla di proposito anche lei, per poi regalargli un ultimo saluto notturno, tenuto nascosto come un livido imponente impresso sulla carne. Aveva gli occhi abbandonati nella sua stessa direzione. Quando poi la scorgeva, dal suo fumo sottile di sigaretta, nelle ombre polverose degli interni, che si alzava sulle punte per guardare fuori, cercando di farsi notare. Poi ritornava ai doveri della sua fretta, a controllare la chiusura delle imposte nel tinello, a sfilarsi le tende di seta tra le dita sottili di fumo, insieme alle mutandine strette e rosse, lasciate ferme a metà coscia, prima di addormentarsi tra i palmi roventi del marito, di morire dall'amplesso di un sonno intimo, fatto di respiri profondi e grandi promesse mancate. Lasciandosi dietro le voci stremate dei bambini, dalle finestre ancora aperte. Il giorno dell'orfanotrofio non era mai scandito dalla sequenza temporale degli eventi, ma da sensazioni rarefatte di luce e scorci schiarenti di paesaggi ventosi, che allora affiorare e poi sfumare, cantavano ognuna di un proprio destino intimo e liturgico, rimesso vivo per ogni iride che ne avesse percepito l'essenza più dolciastra, a cullare i risvolti fantastici e sognanti, fino a tarda sera. Le voci del gioco, al mattino dei giorni feriali, cessavano intorno alle 9, quando cominciavano le lezioni delle classi elementari, ma a pranzo si ritornava nella luce statica dei neon della mensa, a fare briciole con il pane e lanci di tovaglioli in uno scoppio morbido di tristezza e a ridere con gli occhi ed avanzali tesi di gerani e di garofani di Spagna. Martine era l'unica bambina rimasta ancora lì dentro. Tutti gli altri, rimasti ancora in istituto, erano tutti maschi. 29 fringuelli alpini, già impiumati di muta e ancora forti di quella complicità tenace che li nutriva ed aggrediva di vita di trovate sempre più raffinate e malvagie, verso quell'unica piccola superstite ancora troppo ingenua per potersi difendere con le sue poche forze. Martin partecipava di rado e contro voglia ai loro giochi, più delle volte in attesa dell'arrivo dei pasti, preferiva rimanere a guardare fissa quella stessa casa centrale, con l'intonaco più acceso e curato fra tutte. Il tempo di Martin scivolava con le sue dita sui vetri appannati dalla patina calma della bruma del tardo autunno, e seguendo le linee più tenere dei suoi pensieri incerti, che traduceva subito di vapore in sorrisi di delfini azzurri o nei disfatti di ghiandaie marine. Era da un po' di tempo che si sentiva bisbigliare di questa nuova coppia, inquilina di quel paradiso dei tavolini bianchi e forati del giardino, dove si gustava la seduzione domenicale degli aperitivi all'aperto, circondati di continuo da ospiti importanti, dai grandi cappelli di paglia, su abiti ancora troppo leggeri. Si parlava in giro, appena dopo l'arrivo della straniera, dagli occhi grandi e profondi, di quella sua voglia sterminata di ottenere a tutti i costi una bambina vera, che le distruggesse quegli angoli perfetti e potati della sua nuova legge invernale, ristrutturata di equilibri e rigori geometrici e solitari, che aspettavano soltanto di essere divelti dalla forza esplosiva di un grisù. Le voci d'istituto correvano, sempre rapide e sferzanti, gruppi goliardici e impazziti di rondoni, che non davano il tempo di decifrarne l'origine, ma che carpivano Martin nel dubbio di quell'attesa ancora probabile, forse tratidata suprema e senza concorrenze, a quell'incastro di destini lontani. Ma dove sei finita? Possibile che tu stia ancora alla finestra? Non vedi che sono passate le 10, tesoro mio, e poi sempre tutto al buio, senza nemmeno un po' di luce. Ma perché fai così? Arrivo subito, scusate tantissimo. Adesso fila subito in bagno e poi a dormire, che domattina è scuola, e lavati bene le mani. La bambina ubbidiva, sazia delle dolcezze di quelle attenzioni così minute, che le davano la fragile conferma di esistere ancora per qualcuno da qualche parte, e di essere comunque un pensiero, anche se tra tanti più importanti e imponenti del suo. Di baci delle buonanotte Martina riceveva sempre 3. In questo era decisamente la più fortunata, e quando suor Matilde riusciva a raggiungere le camerate e non aveva tanto affanno, le arrivava più debole e delicato anche il quarto, quasi sempre sotto l'occhio sinistro. Ogni notte, nelle sue preghiere confuse, Martin includeva le bambine dell'istituto, ormai già lontane, e alla fine la misteriosa inquilina della casa di fronte, che l'ultimo sabato le aveva fatto arrivare anche i colori e un album molto grande e ricco di bellissime figure, ancora fresco e profumato, dell'edicola più importante e illuminata del corso Mansfield. Cominceremo con piccoli contatti, signora, insisteva suor Lucrezia. Certe cose andrebbero sviluppate per gradi. Cominci a farsi conoscere con dei gesti piccoli, misurati. Poi, piano piano, vedremo di definire la situazione, con qualche primo incontro, un po' più concreto. Dobbiamo soprattutto tutelarla, capisce? Ma sono sicura che lei mi comprende. Certo, assolutamente d'accordo, madre. Adesso è giusto per cominciare a conoscersi, niente di più. Su questo punto avrà tutta la nostra collaborazione. E suo marito, invece? Mio marito, il sabato è più difficile poterlo coinvolgere, ma stia sicura che la prossima volta ci sarà di sicuro anche lui. Lo sa che è molto importante. Credo che ve lo abbiano spiegato, vero? Per cui la prego, signora Fardin, non dimentichi mai di coinvolgerlo, soprattutto all'inizio. Certo, ha ragione, non ne dubiti. Ha qualche altra domanda in proposito, signora? Vede, un'ultima cosa. Forse potrebbe sembrare anche sciocco, ma mi chiedevo perché poi alla fine è rimasta proprio Martine da sola, ancora qui in istituto. Ci saranno stati forse dei contrattempi, delle problematiche di rapporto con qualche altra coppia? Solo una curiosità, non pensi ad altro, per carità. No, affatto, signora, non lo penso. E poi la sua curiosità è assolutamente lecita. Le posso dire soltanto che forse un motivo preciso non esiste. Sarà forse dipeso dall'intreccio dei vostri destini, chissà, che avranno deciso un po' da soli di incrociarsi e articolarsi in questa direzione. Soddisfatta? La signora Fardena le sorrise, abbassando appena lo sguardo e sgranando al massimo la tenerezza dei suoi lineamenti sottili e la forza attenta e decisa dei suoi occhi scuri, profondamente vividi e lucenti a quell'ora soleggiata del mattino. In effetti la poverina diventava sempre più invisibile, non appena arrivavano le prime visite, fino quasi a sparire. È come se nessuno la notasse. Insomma, Martina in alcuni momenti non esisteva più. E tutto questo noi non ce lo siamo mai spiegati, nessuno di noi. Pensi un po' che stranezza, una bambina viva e invisibile. Con il passare del tempo, i loro deboli contatti proseguirono e anche gli album cominciarono a diventare ancora più ricchi di figure e più frequenti, anche al di fuori delle solite visite ufficiali del sabato pomeriggio. Martin ricordava che le ultime compagne d'istituto, poco prima di andare via, avevano assistito ad un aumento graduale di piccole attenzioni verso di loro, che al momento lo avevano subito percepito come una sorta di piccolo addio alla loro vecchia vita di collegio. Ormai la bambina si sentiva pronta e allenata a tutte quelle dinamiche, e ad ogni nuovo regalo le si accorciavano le distanze con la grandezza fiabesca e romantica del suo sogno. Con il tempo cominciarono ad infittirsi le visite dell'americana. Arrivava sempre verso sera, intorno alle 20, con il suo passo elegante, sfilando nelle tinte grigie dei suoi lunghi cappotti, nella fragranza di profumi invernali che Martina avvertiva ancora più impermanenti nel dolore fisico intenso del distacco, quando la donna, ormai già in piedi, le accarezzava piano quella piccola nuca scoperta prima di andare. L'ultimo sabato, la signora Fardin raggiunse l'istituto molto presto. I suoi occhi più contratti, di un sonno disturbato, e ancora caldo sul suo trucco leggero, per averla dovuta raggiungere a tutti i costi e in perfetto orario, come promesso. Martina rimaneva accanto, nella prudenza spaventata dei silenzi del corpo, fissandola con il viso impiantato nel suo sguardo ancora così mutevole e distante, come un dente infetto che richiama in un ascesso l'alveo di carne che lo accoglie e insieme lo respinge. Martina non voleva perdersi nulla di quel contatto raro e così segreto, che le vedeva appoggiate al banco più stretto, dove disegnavano insieme qualcosa di nuovo, sotto l'ombra del suo grande cappello antico e del suo sorriso, sempre un po' triste. Gli occhi seguivano le dita, che si aprivano ancora, prima di fermarsi spaventate sulle sue mani più vicine. Quel pomeriggio Martino ricevette un altro omaggio, un ombrellino da sole orientale, decorato da entrambi i lati con due uccelli variopinti del paradiso, snelli e chiari, nel celeste più luminoso. Si sfioravano le timoniere in una curva ancora limpida, che sfocava di cenere sull'apice fino a dissolversi, ricongiungendosi alle punte acuminate dei loro lunghi becchi d'argento. Il rapporto con Suor Paolina si era molto rafforzato da quando tutte le altre bambine erano andate via. Martino la seguiva con i passi piccoli, squilibrandosi di lato quando Suor Paolina all'improvviso accelerava e superandola, e quando le dava di spalle ancora più visibile per la lunghezza spettrale di quel nero della veste, che a quell'ora della sera la rendeva più inquieta. Le due avevano raggiunto un'intesa fatta di poche parole, ma anche di intuizioni profonde, che spesso nascevano dal taglio rapido di uno sguardo, dal contatto tremante di una mano sul capo freddo, prima di salutarsi per la notte. Non vedi l'ora, è vero tesoro? Venerdì sera il bagno dovrei essere perfetta. Laveremo anche i capelli e poi li pettiniamo nell'altro modo, senza quell'elastico orrendo, che non so perché ti piace così tanto. Questa brutta coda la dobbiamo dimenticare. Non sei mica un cavalluccio, mi ascolti, signorina. D'accordo. Attenta, ripeti bene. Come si dice? D'accordo. Continua, su, non avere paura. Martin pensava alle parole da correggere, sperando di indovinare il suono giusto in ogni punto della parola. Il suo linguaggio rimaneva ancora pieno di piccoli ritardi e difetti. Allora, io sto ancora aspettando, Martin, sai? D'accordo. Meglio, brava Martin. Comunque dobbiamo allenarci ancora tanto. Voglio che tu sabato faccia un bel discorsetto alla signora Farden. Te ne ricordi che ne abbiamo già parlato, vero? Martin fece cenno di sì con il capo, continuando il suo piccolo sogno intimo. Raggiungeva la vetrata grande, schiacciando il naso contro le luci fioche delle case, senza perdere mai di vista i riflessi di quella centrale, che in quegli ultimi giorni cominciava a guardare in modo ancora diverso, forse già impaurita dall'arrivo annunciato di quella strana gioia.